sempre stata, so per la povertà. Mamma Leone, tu hai dato tanto di felicità ai bimbi, hai dato il tuo amore, non hanno avuto che dolore. Mamma Leone, Mamma Leone, Mamma Leone, fai che ritorni, no. Mamma Leone, quella speranza di riamarci. Mama Leone, Mama